side, so I think it's a three from ball outside. Che avete richiesto? secondo segretario, e quindi ho notato di essere 5 nazionali, lui ci va su da metà banco a scuola 45, però no, è così, ci metto pure un manche a due, un manche a due, un manche a due, un manche a due, Lo sapevo. Oggi è buono. Hai visto un po' più lenti. Passato il Cariolo. Attenzione Italia, hola, attenzione Italia, Olanda chiama, aquí Francesco di Olanda chiama. Un momento, Roger. Molto stazione, 100% in questo momento, Roger. Si annuncia come storico.